I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. Mon tamne chij bataris ne tame maneke jo suche. Mon tamne chij bataris ne tame maneke jo suche. The key. A chavichi. A chavichi. The glass. A glasci. A glasci. The watch. A grialci. A grialci. The glasses. A chasmachi. A chasmachi. The telephone. A fonchi. A fonchi. The comb. A caschici. A caschici. The scissors. A catarci. A catarci. The razor. A ostroci. A ostroci. The envelope. A covarci. A covarci. The pencil. A calamci. A calamci.